si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buon sabato, cari ascoltatori. Eccoci qua, ben ritrovati in diretta con Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24, insieme oggi fino alle 10 del mattino. Un'occhiata veloce alle prime pagine dei giornali di oggi, che è una rassegna stampa, ci porterà fino al GR delle 8, al giornale radio. Poi dopo cominceremo con i nostri approfondimenti, sempre a caccia di buone notizie, di buone pratiche. Torneremo, ve lo dico subito, ad Ercolano, dove questa settimana, sapete, c'è stata l'uccisione di due rapinatori da parte del gioielliere che stava subendo una rapina. Cercheremo di capire qual è la situazione di sicurezza in questa città. Il sindaco ha detto una città che è stata ripulita da racket, adesso però il malaffare arriva da fuori Ercolano, e ha auspicato l'arrivo dei soldati. Il ministro della difesa Pinotti ha detto che questa è una soluzione, può darsi che sia una soluzione tampone, però insomma non può essere una buona notizia, questa non può essere una soluzione di lungo periodo, la militarizzazione del territorio, di alcune parti del territorio italiano. Ce lo domanderemo con chi della sicurezza e della legalità ha fatto una bandiera a Ercolano, l'associazione anti-racket locale. Poi dopo commenteremo una buona notizia, ottima notizia per l'Italia di questa settimana, ed è che la produzione di vino italiana ha superato la produzione francese, e quindi siamo i leader al mondo, almeno sulla carta, per quanto riguarda la vendemmia, che è un'ottima vendemmia quest'anno. Lo commenteremo con Joe Bastianic. Adesso però cominciamo con la rassegna stampa. Vai. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Allora, insomma, le dimissioni di Ignazio Marino, anche se non sono ancora pervenute, bisognerà aspettare fino a lunedì. Non si è capito se per un vizio di forma, perché non c'era il numero di consiglieri in assemblea capitolina a Roma, al Campidoglio, oppure se perché, come scrivono alcuni giornali, Marino sta ancora trattando per cercare di resistere in qualche modo. Questo domina, diciamo, le aperture, ma anche la buona parte dei giornali di oggi. Poi c'è spazio anche per altre notizie, come per esempio, con il Corriere della Sera. Non sono buone notizie, perché si parla dei morti della nuova intifada, gli scontri al confine tra Israele e Gaza, uccisi 7 palestinesi, Hamas che invoca la liberazione addirittura di Gerusalemme. Sembra di essere tornati davvero ai tempi del 2000, dell'intifada, la seconda intifada. Si parlerebbe di una terza lotta dei palestinesi. Finite le preghiere di mezzogiorno nelle moschee della striscia di Gaza, cosa è successo? Centinaia di palestinesi hanno marciato verso la barriera che li separa da Israele, lanciando pietre e bottiglie incendiarie. Come sempre in queste zone, è una serie di azioni e reazioni da una parte e dall'altra, e questo, diciamo, è il clima, come se mancasse un altro fronte, diciamo, di crisi internazionale oltre alla Libia, oltre alla Siria. Si riaccende la situazione tra Israele ed territori palestinesi. L'altra notizia invece, che riguarda sempre il resto del mondo, diciamo così, è il Nobel alla pace al quartetto del dialogo tunisino. Un Nobel particolare, a 4 associazioni. Qualcuno ha storto la bocca, no? Perché insomma, un premio a un sindacato, a un'associazione di imprenditori, all'associazione degli avvocati nazionali tunisini, sembra una cosa un po' strana. Eppure, secondo la commissione norvegese del Nobel, queste 4 associazioni hanno contribuito, diciamo, a fare un passo nella democratizzazione, nella crescita, nel rafforzamento della democrazia di questo paese. La Tunisia, un paese importante negli equilibri nordafricani, negli equilibri internazionali, perché un paese che ha una tradizione di democrazia, però scosso anche lui dalla primavera araba e soprattutto dai gravissimi attentati dei mesi scorsi. E quindi questa, diciamo, la notizia con la foto dei 4 rappresentanti di questa associazione premiate ieri in Norvegia. C'è spazio anche per intanto il via libera al Senato della riforma del Senato. È stato approvato anche l'ultimo articolo 28, se non sbaglio. Comunque l'ultimo articolo, adesso si va martedì al voto finale. Renzi ha detto: avevo i voti, avete visto, ha scritto su un tweet, dicevano le riforme si fermeranno, il governo non ha i numeri, visto com'è andata? È andata abbastanza bene. L'ultimo articolo è stato votato con una maggioranza di 165 voti a favore, non tantissimo margine per la maggioranza al Senato, dove diciamo la soglia è 158-160 voti, però quel che basta per approvare questa riforma della Costituzione, che poi sapete avrà altri 152 step, cioè, ulteriori votazioni, ulteriori, e poi si andrà al referendum, insomma, fondamentalmente, se ci sarà il voto finale, il secondo voto, poi arriveremo a un referendum come prevede la Costituzione. Prima di arrivare a Marino, forse ne avete già le tasche piene, perché se ne è parlato ovunque, ma ci arriveremo anche noi. Prima di arrivare a Marino, un'altra notizia riguarda Venezia, invece, ed è la vendita dei capolavori per salvarsi. Il sindaco Brugnaro batte cassa e presenta un dossier per spendere, per vendere, scusate, i gioielli di famiglia. Ci sono 62 milioni di euro di debito per la città lagunare e allora Brugnaro dice: vendiamo questi quadri, che abbiamo un Klimt e uno Chagall che non sono legati alla storia di questa città, e incassiamo bei soldini. Il ministro per la cultura Franceschini che dice: non scherziamo Brugnaro, non scherziamo. E invece chissà, magari non scherza Brugnaro, vediamo un po', vediamo se ci arrivo all'interno del Corriere. Di cosa si tratta? Una nuova sparata del pirotecnico sindaco di Brugnaro, quello che aveva, diciamo, se l'era presa con i libri gender, la lista di proscrizione nelle scuole materne, che aveva polemizzato con Elton John, che vuole mantenere la proprietà pubblica del casino, insomma una serie di cose, di sparate secondo alcuni, no? Del sindaco, di neo sindaco di Venezia. Sarà, ma la proposta è contenuta in un dossier che la giunta di Caffarsetti, il municipio di Venezia, ha messo nelle mani del Parlamento. Il documento chiede un aggiornamento della legge speciale, attenzione, su Venezia, sollecita l'erogazione di altri finanziamenti promessi e mai arrivati, circa 20 milioni di euro, e altri interventi di finanza creativa, accanto a proposte già sentite in passato come una zona a pagamento pedonale attorno a San Marco, una tassa sui turisti che arrivano in treno, la vendita del patrimonio mobiliare, tra cui anche appunto la vendita di opere d'arte di natura pittorica che non pregiudicano, si legge nel documento, l'integrità delle collezioni esistenti. Cioè si venderebbe, secondo Brugnaro, dei quadri che non hanno molto a che fare con la storia di Venezia, quindi diciamo via libera da questo punto di vista. Oh, ancora Marino? Aspettiamo ancora un attimo o andiamo su Marino? Andiamo su Marino. Allora, cosa c'è su Marino? C'è tutto, c'è tanto, c'è troppo. Leggiamo, andiamo su Repubblica, per esempio, perché si parla della resistenza di Marino che sfida il Partito Democratico, perché insomma le dimissioni non sono ancora arrivate. E scrive in Repubblica: chi pensava che Roma, dopo le dimissioni annunciate di Marino, si sarebbe risvegliata senza sindaco, ha sbagliato di grosso. Il primo cittadino della capitale vive e lotta insieme a noi, ancora in sella, alla guida della città e nel piano delle sue funzioni, almeno fino a lunedì, quando dovrebbe formalizzare l'addio, il segno di una capitolazione che non è ancora resa, pronto alla guerra dei 20 giorni per restare e rilanciare con una nuova giunta, tutta composta di esterni, che sta contrattando. Che sta contattando in queste ore, è una grande manifestazione in suo favore in piazza del Campidoglio. Nessuno dice: ma la manifestazione di chi? Se abbiamo sentito soltanto gente che non vedeva l'ora di scaricare Marino, cittadini romani infuriati per il traffico, per i mezzi pubblici, per la sporcizia, politici, nessuno che abbia, neanche quelli che l'hanno sostenuto fino a due giorni fa, che abbia diciamo inteso in qualche modo salvare Marino. Eppure c'è una petizione online che è stata firmata da quasi 30.000 persone, c'è la pagina Facebook Io sto con il sindaco che ha superato gli 8.000 iscritti, per la verità non sono tantissimi, e ieri davanti al Campidoglio c'erano, oltre ai manifestanti di Casa Pound che chiedevano, e anche qualche grillino che chiedevano insomma ripuliamo la città, via Marino, eccetera eccetera, c'erano anche i sostenitori di Marino, per esempio Vediamo. E qui si racconta, diciamo, dei battibecchi tra i grillini e i sostenitori di Marino. Alla grillina Letizia, che col berrettino del movimento in testa, diceva: ormai neanche i preti lo vogliono più il vostro sindaco. Ha risposto Giovanni, dirigente di una squadra di pallavolo, che era lì, col suo cartellino Marino resisti. Ma perché? Le risulta che i preti sono per l'onestà? La grillina spiazzata ha risposto no. E lui trionfante: allora lo vede, siete i soliti grillini, dovete scendere da cavallo. Poi il battibecco con uno di Forza Nuova, che urlava buffoni agli assessori. E la vecchietta che urlava invece: resistere, resistere. E il militante di destra: sì Marino, resisti, così distruggi il PD. E lei: te piacerebbe. E lui: non ne possiamo più di gente che ruba. E la signora: lo dite voi che vi siete magnati mezza Roma. E così andare. Insomma, però la questione è questa: l'esercito di Ignazio tra firme flash mob e l'idea della lista civica. Cioè Marino starebbe pensando di resistere forte di questo sostegno di una parte della popolazione che vede in lui comunque un che cosa? Uno che ha una persona magari che ha fatto delle gaffe, che ha sbagliato, però che si è messo contro i poteri forti. Ed è una tesi che fa breccia. Per esempio, il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, manda un messaggio a Marino, questo lo riporta il Corriere, nel quale scrive: un pensiero per Marino, lasciando il comune di Roma rimarrà per me il sindaco che ha avuto il coraggio di confrontarsi con la mafia. Traffico, torniamo tra un attimo. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. I nostri contatti, se volete interagire con noi in tempo reale, subito la pagina Facebook si può fare, trattino Radio 24, l'account su Twitter è chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi, c'è sempre l'SMS, naturalmente 349-238-6666, poi dopo il giornale radio delle 8 apriremo anche il numero verde per i vostri interventi. E insomma, eravamo sul Messaggero, dove si rintraccia notizia di questo... diciamo messaggio del sindaco di Parigi Hidalgo, Anne Hidalgo, al dimissionario sindaco di Roma, il sindaco che ha sfidato la mafia. Per me resterà sempre un esempio, dice lei, così come Bill de Blasio, il sindaco di New York, che ha detto di essere stato ispirato da Marino, un sindaco coraggioso che merita molto credito. Qualche altro retroscena sul Messaggero: Renzi vuole 9 commissari per Roma. Ieri l'incontro con il commissario del PD Orfini si è chiuso così: abbiamo 20 giorni per pensare ai nomi dei commissari, si vota a giugno, poi dovrete mettercela tutta per dimostrare che in pochi mesi si riesce a fare ciò che non è stato fatto fino ad ora. Cioè Renzi immagina di utilizzare il commissariamento fino alle elezioni per far, diciamo, creare una vetrina di positività, di impegno per risolvere i problemi di Roma, in modo da mettere, diciamo così, una pezza sulla figuraccia rimediata dal suo partito, soprattutto perché di Marino si può parlare male, ma bisogna parlare molto male dei partiti romani, PD in testa, infiltrati con la famosa terra di mezzo di Mafia Capitale. Ci sono delle inchieste, ci sono degli assessori indagati che si sono dovuti dimettere, ex assessori, e insomma c'è tutta un'amministrazione, un'alta pletora di burocrazia che con i politici si vendeva agli affaristi per fare il bello e il cattivo tempo a Roma. Tutto questo però sui giornali di centrodestra ha un altro sapore, perché insomma Marino minaccia ancora, dice Libero: dimissioni rinviate, il sindaco smentisce le frasi di Cattatorie che erano uscite. Cioè lui sta scrivendo un libro, una sua autobiografia, e circolata la frase che Marino avrebbe detto: tiro fuori i nomi, faccio i nomi di chi è colluso, di chi ha fatto delle porcherie, eccetera eccetera. Però prosegue Libero: Marino briga per restare, Sel apre le porte al tentativo, però se fallisce l'allegro chirurgo vuole farla pagare al suo partito presentandosi alle elezioni con una lista civica. Poi il giornale scrive: i pizzini di Marino, sinistra nel panico per le possibili rivelazioni del sindaco, intanto è giallo sulle dimissioni, non sono ancora arrivate, mentre il Vaticano lo seppellisce col commento che è apparso ieri sull'Osservatore Romano: lascia solo macerie. Commento durissimo dell'Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede, che ha detto questo. L'unica certezza è che a Roma ci sono le macerie. Scrive il giornale: la farsa non è ancora finita, si trasforma in telenovela. L'ultimo colpo di scena riguarda le dimissioni del sindaco Marino, che ancora non sono state ufficializzate. Un giallo che diventa thriller nelle stanze del PD romano, dove serpeggia il panico per l'imminente pubblicazione di un libro di memorie nel quale Marino potrebbe togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Intanto anche il Vaticano si toglie i sassi dalle pantofole. Dietro di sé il sindaco lascia solo macerie. Questa è appunto la frase incriminata. Ancora un paio di minuti per chiudere, ma intanto per esempio andiamo sull'Avvenire, che fortunatamente si occupa anche d'altro rispetto a Marino, ed è, insomma, mette insieme due notizie che riguardano lo scenario internazionale. Due notizie: il Nobel alla pace alle associazioni tunisine e la Libia, dove sarebbe stato raggiunto un accordo, sarebbe, perché bisogna ovviamente verificare nel caos libico delle varie fazioni che si fanno la guerra, l'accordo per un governo di unità nazionale. L'accordo, questo sarebbe un'ottima notizia, finalmente non si sa bene come la mediazione delle Nazioni Unite sarebbe andata in porto, speriamo, e il titolo che fa Avvenire è La pace possibile, mettendo appunto insieme Tunisia e Libia. Sulla prima del Corriere invece una lettera di Maurizio Martina, ministro per l'agricoltura, che dà una notizia: il governo entra nella società che possiede l'area di Expo. È davvero importante, scrive Martina, che si rifletta sul progetto che deve nascere dall'area dell'esposizione universale dopo questi straordinari 6 mesi vissuti. Beh, insomma, si poteva parlare di questo mesi fa, settimane fa, forse addirittura anni fa. Si doveva già sapere cosa sarebbe successo dentro questo quartiere dove si è investito un sacco di soldi. Vabbè, fatto sta, siamo in ritardo, però secondo Martina la notizia è questa: il governo entrerà ufficialmente nella società Arexpo, che gestirà il post Expo. Facciamolo una città della scienza, una città universitaria, il nostro Max Planck delle energie per la vita. Siamo il paese della long life, secondi solo al Giappone. Possiamo diventare leader per le tecnologie umane nel settore alimentare, ma anche nella scienza, nella nutrizione, nel welfare, nell'ambiente, nel patrimonio culturale. Questa, insomma, la notizia: il governo entra nella società che gestirà il post Expo. Con questo ci congediamo, ci lasciamo la linea al giornale radio, ci ritroviamo subito dopo con anche i vostri interventi, cari ascoltatori. 800 24 00 24. Torneremo a Ercolano con l'associazione Anti-Racket e poi avremo con noi Gioe Bastianici per commentare il sorpasso dell'Italia sulla Francia nella produzione di vino. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Funky up, uptown funky up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. Ciao Carlo, bentornato. Eccoci qua, sono felicissimo di essere tornato. Purtroppo settimana scorsa non c'ero per un motivo molto semplice. Ero al festival del documentario, del cinema documentario di Taranto. Ti racconto questa cosa per un motivo molto specifico, perché ero in giuria, sono onorato di essere stato chiamato per la giuria di questo festival. Sempre e a un giro, certo punto a cazzeggiare, guardo uno di questi, dei 23 film finalisti che erano in concorso. Ed era sulla storia, il concertino dal balconcino, che abbiamo anche sentito qua in trasmissione. E in mezzo al film sento la mia voce, le nostre voci, la voce durante un'intervista che facemmo a loro, e hanno montato questa cosa all'interno del film. Siamo entrati in un film, esattamente, in un cortometraggio. Siamo entrati in un cortometraggio documentario, non ha vinto, quindi non c'è nessun problema. Non è che perché uno potrebbe dire: ma come, eri in giuria e all'interno di un film? Vabbè, erano 25 secondi della trasmissione. Immagino. Allora io devo dire che siamo entrati anche dentro un istituto di ricerca importante italiano. Devo ringraziare una ascoltatrice che ha scritto una bella mail nella quale ci ringrazia perché ci ascolta sempre. Lei fa la ricercatrice all'ISFOL, un ente pubblico di ricerca sull'innovazione sociale, sul lavoro, diciamo un po' come la rivoluzione digitale e l'innovazione sociale può creare nuovo lavoro e lavori nuovi. Insomma, sembra una cosa un po' fumosa, però lei ha detto, ci ringrazia perché ci ascolta ogni sabato e domenica mattina e prende spunto anche dalle cose che facciamo noi, Carlo, quindi stiamo attenti. Abbiamo una responsabilità enorme, facciamo, quindi. Perché Dunia, che lavora all'ISFOL, ascolta e poi dopo contatta le persone che noi chiamiamo a volte, cioè, e fanno una rete di ricerca sull'innovazione. Ci siamo, ma in mezzo anche noi, ne è sono pazzesco. Felicissimo e ringrazio moltissimo, mi sembra una notizia straordinaria. Vuol dire che abbiamo una responsabilità pazzesca nel momento, anche semplicemente, che decidiamo la scaletta. Non pensavo, guarda, non nemmeno io, nemmeno io. Ciao Dunia, grazie. Ciao Dunia, anch'io saluto tutti quelli del premio Marcellino dei Budgies di Taranto. Milano Monterosa oggi, beh, insomma, ce la caviamo. È che sta arrivando, è che giustamente le giornate si accorciano, ma credo che molto presto ci ridaranno un'ora, giusto? Si dormirà un'ora, sì, di più, però succederà. Penso che sia la settimana prossima. Succederà. Stamattina era molto buio, però adesso vedo un raggio di sole e ne sono molto contento. Allora, tra poco torneremo a Ercolano, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Parleremo con una storica rappresentante dell'associazione anti-racket, perché il sindaco di Ercolano ha detto: questo è un comune deracchettizzato, un comune pulito, il malaffare viene da fuori. Sapete che in settimana c'è stato questo episodio, il gioielliere che ha ucciso due persone che lo stavano rapinando. Allora si è riaperto il dibattito sull'uso delle armi, sull'arrivo dell'esercito a Ercolano. Insomma, chiederemo a queste persone che si impegnano per la sicurezza e la legalità sul territorio da tempo che cosa ne pensano loro di tutto questo. 800 24 00 24. E poi che dire, fra l'altro oggi è la giornata per la salute mentale. Sì signori, 10 ottobre, giornata alla quale teniamo molto e che, sì, della, sì, quale abbiamo parlato spesso tante volte. E leghiamo il nostro gioco, sì, a questa giornata, giusto? Vi chiediamo, insomma, un po', perché sicuramente visti da un certo punto di vista siamo tutti poco da vicino, nessuno è normale, come siamo, si tutti suol poco dire normali, siamo tutti pazzi, abbiamo tutti dei momenti di follia, di disagio mentale, ma io dico sul serio. No, assolutamente, anzi guarda, racconto questa cosa brevissimamente, sì, visto che ha a che fare sia col disagio mentale sia con la radio, come raccontai un po' di tempo fa in trasmissione. Una volta feci un incontro con tutte le radio della salute mentale, perché ricordiamo che ci sono tantissime radio che si occupano, sì, di questa questione, anzi dove i conduttori stessi sono, sì, pazienti, sì. E mi ricordo che io a questa assemblea dissi: è semplicemente che voi avete delle patologie più riconoscibili, perché in realtà ci sono un sacco di persone che, diciamo, definiremmo, perdonatemi la parolaccia, tipo degli stronzi, ma la stronzaggine non è codificata come malattia mentale. Anzi, addirittura io a loro dissi, e mi presi l'applauso per questo, dissi: per dirne una, io fino all'altro ieri sarei stato un malato mentale, perché l'omosessualità era una malattia mentale, adesso non lo è più e quindi io sono salvo e voi non lo siete. Questo per dire semplicemente che ognuno di noi ha dei lati e dei momenti in cui può sembrare matto, e dico tranquillamente matto perché ho girato un film che si chiama, tra l'altro, Si può fare, come questa, sì, trasmissione, dove facevo il matto, quindi lavorando con loro mi hanno dato il permesso tranquillamente, loro tra di loro tranquillamente si chiamano, insomma, matti. E quindi è questo, quello che vi chiediamo nel gioco è esattamente questo, è un lato che è vostro, qualcosa che avete voi che in secondo realtà gli altri è una che secondo follia. Gli altri potrebbe essere una follia, o comunque che si è preso nello specifico solo quello. Faccio un esempio su di me. Io lo so qual è, esatto, il tuo. Io per esempio sono praticamente un accumulatore compulsivo, ovvero tengo per esempio tutti i biglietti del tram. Ho tutti i biglietti del tram da quando sono nato ad oggi. Esatto. Ne parlo anche nel mio libro per un motivo molto specifico che adesso non vi racconto, però per dire questo è lato esempio, è sicuramente un dato dove uno dice: vabbè, forse il ragazzo non sta tanto bene. Ma insomma ce ne sono tanti, non so, a me per esempio mia sorella dice, apre il mio armadio e dice che io sono matto perché ho tutte le cose ordinate, precise, in ordine per colore, camicia anche blu, giacche blu, tutto blu, pantaloni tutto uguale, tutto così. Sembra un po', sai, l'armadio delle scarpe di Nanni Moretti in bianco, tutte, certo, le scarpe tutto, lei dice che è una cosa tutto di uno, blu, dice che è l'armadio di uno psicopatico. Sembra anche un po' l'armadio di Batman, diciamo, non lo so. Quindi insomma, voi ascoltatori, quali sono le vostre nevrosi, le vostre piccole follie, mettete in ordine come fa mia suocera per esempio in maniera compulsiva. 800 24 00 24. Anche oggi mettiamo per la risposta più originale, più interessante, più bella in palio un, cosa abbiamo, il catalogo del MUDEC, il Museo delle Culture, sì, mi pare di sì, un premio comunque. Chiamate 800 24 00 24, vai. cavallo provocano un bel macello. Altro che merendine, lì si spara sul bidello. Fiera sul topolino, colpito è l'uomo ragno. Maldito è l'ispettore, la 44 magno. Legittima difesa, il colpo accidentale. Sono storie ormai passate e rientra nel normale. Mamma mia, le 100 lire adesso devi dargli. Parto per l'America perché voglio armarmi. Parliamo di nuovo dell'uso delle armi dopo il caso di Ercolano, dove un gioielliere ha reagito a una tentata rapina uccidendo i suoi due rapinatori. Si è riaperto un po' il dibattito se è giusto, legittima difesa, eccesso. Questo gioielliere è indagato adesso per eccesso di difesa, omicidio colposo, e l'esercito, il sindaco di Ercolano ha evocato l'esercito Ercolano, il ministro Pinotti ha detto è possibile. Noi ne parliamo con chi della sicurezza e della legalità su questo territorio ha fatto una bandiera. L'associazione anti-racket di Ercolano, il presidente onorario è Raffaella Ottaviano. Grazie e buongiorno per essere con noi, Raffaella. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per avermi invitata. Insomma, Raffaella Ottaviano è davvero un volto e una voce storica di questo territorio, che ha detto il sindaco è un territorio che è stato pulito, c'è stata una lunga battaglia dell'anti-racket, e quindi lui dice il malaffare adesso viene da fuori. Non c'è più. Non è vero, e io lo dico sempre. Dico sempre dal primo momento, ho sempre detto, sì, la paura non è più la malavita di Ercolano, ma sono nei paesi limitrofi. Mm. Che lavoro avete fatto voi? Che lavoro avete fatto voi in questi anni per diciamo, per dare una spinta alla legalità? Sì, che cosa abbiamo fatto? Dal primo momento che io ho denunciato, sì, ho avuto i primi 2 anni sono stata molto in solitudine. Immagino. Poi venne si insediò il sindaco dottor Nino Daniele. Sì. Abbiamo il tempo che posso raccontare? Sì, un tempo ragionevole, Raffaella. Però sì, vada. Stringo. Anche perché è bellissimo sentirla, quindi assolutamente tranquilla, prego. Allora mi invitò a Villa Ruggiero, una villa del 700 di Ercolano, e lì fui invitata a far sì che nascesse l'associazione anti-racket. Sì. C'erano tutti altri commercianti e tutto quanto. Però e lì nacque tutto in quel momento lì. Tutto. È nato con Nino Daniele. Perché lei denunciò sì, e aprì, diciamo, la porta a tutti quelli che non ne potevano, sì, più, come lei. E sì, quindi è nata un'onda. No, ma io non ho mai avuto richiesto. Una sola volta andai a denunciare. Subito. Subito, senza pensarci. Brava. È lì che è stata la cosa grande. E io, se dovessi dire adesso che io sono serena, anche se si sono dette tante cose. Senta però, Raffaella, quante persone adesso fanno parte di questa associazione anti-racket? Cioè, veramente è un movimento a Ercolano, c'è una spinta per la legalità. Tutti siete tanti. I commercianti hanno denunciato. Diciamo 70, 80, ma per me io dico sempre sono pochi. Dovrebbero essere sempre di più. Senta, Raffaella, però, certo, a questo punto, dopo quello che è successo con la rapina, il gioielliere, i due rapinatori uccisi, e questa cosa di l'utilizzo delle armi, e il sindaco dice ben venga l'esercito, lei come la vede questa, diciamo, ipotesi di militarizzazione del territorio, che io dico può essere una soluzione temporanea, ma certo non può essere una buona notizia, perché insomma, noi speriamo di armi in circolazione e vederne sempre meno, no? Sarebbe questo, diciamo, mondo di armi. Voi come la vede? Lei come la vede? Però io la vedo così, che una persona non è possibile che debba subire, non è possibile. E quindi? Io come la... No, è bisogno. Quindi benvenga. Benvenga per dare un segnale forte, sì, perché come le dicevo prima, io ho paura dei paesi limitrofi, vicino Ercolano. Ma... infatti i rapinatori non erano di Ercole, no, venivano però, da però, mi scusi, sanità, però che cosa... io l'ho appreso io la notizia l'ho presa dalla televisione, perché io non sto e non mi trovo a Ercole in questi giorni. Sì. Però forse sta facendo l'esempio molto giusto, nel senso che lei dice: noi ci siamo occupati di Ercolano e abbiamo in qualche modo ripulito Ercolano. Però noi la soluzione abbiamo ripulito, perfetto, Ercolano, perfetto. Molto bene. Il problema è che se uno da Secondigliano arriva e fa una rapina, siamo di nuovo al punto di partenza. Facciamo spazio? No, dico che il problema forse va risolto alla base, non è che si può risolvere semplicemente ognuno nella propria città, giusto? Certo, alla base. Giusto come ha detto lei, è così, è quello che dico pure io. E quindi insomma ben venga, diciamo, per un periodo l'esercito. Altra questione, Raffaella, altra questione, no? È quella dell'uso delle armi, cioè del fatto che insomma esatto, le chiedo, secondo lei questo commerciante, lei avrà poi letto i giornali, avrà visto, ha esagerato in un eccesso di legittima difesa oppure no? Ma quello in quel momento non si capisce niente. Poverino, quello in quel momento che cosa doveva capire? Che la sua vita era repentaglio. Certo. Ma stiamo scherzando. Anche perché diciamo una cosa. Veramente si fa. Diciamo una cosa, i due rapinatori avevano delle pistole, sì, giocattolo, però avevano tolto il tappino rosso, quindi diciamo potevano sembrare tranquillamente delle pistole vere. In quel momento diventa anche difficile chiedere a una persona di andare a verificare se quello sia un tappino mancante o una pistola vera. Non c'è molto tempo. C'è quel tempo, effettivamente. Se tu pensi che sia una pistola vera, pensi che sia una pistola vera e di conseguenza reagisci. Comunque, Raffaella, diciamo, per in qualche modo anche per chiosare questa cosa qua, cioè voi una presenza anche solo temporanea dell'esercito Ercolano, voi dell'antiracket della città, la vedreste positivamente, perché sarebbe un segnale di che cosa? Dello Stato che vi sostiene? Proviamo anche questo, certo, lo Stato deve, perché ti dà quella cosa, dice, qui c'è lo Stato è presente e ci sono delle regole e si devono rispettare. Infatti è anche questo forse il motivo per cui sono d'accordo con lei che uno dice in quel momento uno che cosa doveva fare, però è anche vero che l'autodifesa non è una soluzione, giusto? Sì, se vogliamo metterlo così è come dice lei. No, me lo chiedo, guardi che io me lo chiedo, nel senso che non penso, cioè che comprendo il commerciante che per legittima difesa si difende. Certo, però non vorrei aumentare la vendita di armi, non vorrei domani invece piangere dei ragazzi morti in un college come succede negli Stati Uniti, ecco, questo volevo dire. Ma lì ci sono altre leggi. Secondo lei insomma è un rischio che si può correre in qualche modo? È un rischio che si corre, non c'è niente, perché sono attimi, è inutile che facciamo. No, ma infatti comprendo benissimo il momento, ci mancherebbe altro, non sto dicendo. Però guardi, le posso dire che quando vennero da me io non capì niente. E come andò quando vennero da lei? Cosa successe? Ma io li cacciai a malo modo fuori, guardi, non mi fa ricordare quel giorno. Sì. Erano due di loro che proprio con ancherie, con un atteggiamento di padrone. E quelli che dobbiamo fare, signora, facciamo presto. Dissi, uscite fuori immediatamente, non voglio nemmeno ascoltarvi, via dal mio negozio. E lei riuscì in questo modo a farli andare via. Raffaella non aveva armi in quel momento lì. Guardi, no. No. Non le avevo. Però chi ha le armi, lei in qualche modo lo capisce. Sì, è per questo io dico, sono attimi, poverino. E poi si rimane scioccati. Guardi, lei non può immaginare, a me ormai sono passati 11 anni e sono ancora scioccata. Va bene, grazie Raffaella Ottaviano, grazie per essere stata con noi, anche per avere diciamo evocato questo ricordo. Lei è presidente onorario dell'antiracket di Ercolano, avete fatto tante battaglie, e molte sono andate a buon fine, c'è ancora da lavorare, in bocca al lupo. Grazie per essere stata con noi, buon sabato. Arrivederla. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Insomma, questa è la questione. Si riapre il dibattito sull'utilizzo delle armi, sull'invio dell'esercito in quel territorio, evocato dal sindaco. Il ministro Pinotti ha detto è possibile. Staremo a vedere. Voi che ne pensate, cari ascoltatori? 800 24 0024. Ci risentiamo tra poco, dopo la pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno. Cari ascoltatori, 800 24 0024, siamo partiti dalla vicenda di Ercolano. Sentiamo un po' di opinione di ascoltatori. Massimo da Firenze, buongiorno. Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Anche se è una giornata che vuoi, ma sempre buongiorno. Vabbè, dunque, dai. Massimo. Allora, sì. Io porto l'arma per il mestiere, se faccio la guardia giurata. Okay. E io reputo che il signore di Ercolano abbia fatto ciò che deve fare una persona quando si sente minacciata da altre armi, che siano finte o vere, se uno non lo sa, bisogna reagire ragazzi, a casa si deve tornare, in qualche maniera il governo la deve finire con questo buonismo e deve dare la possibilità alle forze dell'ordine di poter tornare la sera a casa dalle proprie famiglie, dai propri figli, poterli riabbracciare. Però Massimo, scusi, non sono due cose diverse, cioè quello che sta dicendo sulle forze dell'ordine e il singolo cittadino, ogni cittadino deve comportarsi come se fosse un agente? Perché? C'è dei singoli cittadini che portano l'arma perché fanno dei mestieri a rischio, tipo il signore di Ercolano che trasporta gioielli. Ok, quindi chi fa il mestiere a rischio secondo te, Massimo, dovrebbe essere armi è a rischio, no? È come quelli, è come noi quando si viaggia. Però ci sono delle categorie che hanno il diritto, diciamo, a portare l'arma proprio perché sono categorie a rischio, visto ma che fa la guardia giurata, Massimo. È più che un diritto, è una questione anche di diritto, ma è una questione anche di dovere da parte del governo darci la possibilità di difenderci, ragazzi. È tutto lì il discorso. In realtà oggi non è più la delinquenza di prima, che uno prendeva una radio, la portava via e non si sapeva che era Mario del quartiere perché era un tossicodipendente, si andava a casa sua a ripigliare la radio. Qui si parla di delinquenza allo stato puro, al 100%, gente disposta a darti una rivolverata, una coltellata per niente. Sapete cosa vuol dire per niente? Io sono una che fa la notte, tutte le notti. Però Massimo, nel caso per esempio di Ercolano, dove i due rapinatori avevano delle armi finte, no? Delle armi finte. Forse, ma è una vergogna, forse, parenti, forse, forse, forse un poliziotto avrebbe potuto accorgersene, magari. No, non te ne accorgi. Fai a accorgersene? Ci sono delle pistole, gli levi il tappino, come fai a accorgerti? Non è possibile. Ma che scherziamo, ragazzi? No, però la cosa che giustamente sta dicendo lei è che il governo dovrebbe far sì che le forze dell'ordine ci difendano. No, ecco, ma carta bianca a chi? Alle forze dell'ordine per potersi difendere, ragazzi. Carta bianca nel senso non che diventi un far west. Non stiamo parlando di far west, infatti. No, non fraintendetevi. Le forze dell'ordine ce l'hanno il potere di reagire, non è che non ce l'hanno. Non hanno carta bianca. Aspettiamo. Abbiamo l'ordine con che quadro conseguenze? Con quali conseguenze? Indagini sotto indagini per vedere se ma stiamo scherzando? Come quel poliziotto che ha reagito e che ora è sotto inchiesta? Ma stiamo scherzando, ragazzi? Cioè qui si vive in una nazione dove bisogna stare, l'arma a noi la si porta per cosa? Per bellezza. Quindi scusi Massimo, seguendo il filo del suo ragionamento, l'esercito, l'arrivo dell'esercito a Ercolano potrebbe servire per togliere d'impaccio molta gente che... L'esercito è un deterrente per far capire che Ercolano l'esercito cosa fa? Ercolano si può controllare un territorio particolarmente denso di criminalità. Questo è. Cardi, capito? Il gioielliere ha fatto quello che doveva fare. Cioè, va bene, Massimo. Grazie, buona giornata. Massimo. Il punto di vista di uno che fa la guardia giurata è un punto di vista che ascolto con interesse perché ogni giorno stanno lì in bilico. Sono una sorta di forze dell'ordine private, ma sono una sorta di forze dell'ordine. Infatti, visto che potete mandare anche degli sms al 349-238-6666, Enzo che scrive: Gabardini, non puoi fare il giornalista cerchio biottino. cerchio bottista, volevo rispondere che non faccio assolutamente, non do un colpo al cerchio e uno alla botte. Quello che io penso è che l'autodifesa non è una soluzione. Penso che due morti per strada, anche se rapinatori, siano in realtà una sconfitta per tutti noi. Poi io personalmente penso che se in difficoltà e se legittima l'autodifesa, io personalmente non la condanno. Quindi penso che se il gioielliere pensava che questi lo stessero ammazzando, ci mancherebbe altro che non possa reagire. Però non penso che sia una soluzione l'autodifesa. Posso sentire l'ascoltatrice o vado sul traffico? Traffico e poi ascoltatrice? Allora facciamo Cristina da Vicenza, velocemente. Buongiorno Cristina. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo. Buongiorno. Io sono pazza. Autodenuncia, autodichiarazione. Anche allora noi. Io compro i gradini, sì lo so. Allora compro i gradini di casa perché io abito in una casa molto vecchia, sì. È praticamente una piccola torre che ha due stanze per ogni piano, sì. Che sono quattro piani. Però, all'interno di casa, cioè apri la porta di casa e dentro hai delle scale, dentro. Sì, scale, sì. Cucina, scale, bagno, scale, camera, scale, l'altra camera. E facendo scale, queste scale conti i gradini. Allora, sì. Non puoi fare altrimenti. Ma lo faccio anch'io, devo dire. Questa ce l'ho anch'io. Io non vivo in una torre. Tu ce l'hai quasi tutte. Io forse le ho tutte. Io li conto di 8 in 8, perché 8 è il mio numero e quindi li conto in 8 in 8. Lei come li conta? Semplicemente che sa esattamente il numero oppure divide per un numero? Allora, ho calcolato che faccio circa 500 gradini in media ogni giorno. Sì. Che moltiplicati per 30 anni, che sono 30 anni che abito in questa casa. Ha scalato l'Everest praticamente. Allora, 5.475 gradini che... In quanto tempo? In 30 anni. 5.000, bene, pensavo di più in 30 anni. No, tipo... ma di più di sicuro. Se ne fa 500 al giorno, signora, ne fa 5.000 in 10 giorni. Cioè. Ah, sì, allora. Sarà 5 milioni. Cristina, lei è pazza davvero, non sa fare cose. Beh, insomma, allora, alla fine di questo calcolo, sì. È venuto fuori che ho scalato l'Everest virtualmente. Ovviamente, 2.933 volte, virgola, ecco, periodico. Questo è il dato. Quante volte 2.900 volte. Ha scalato l'Everest 2.000 volte. 2.933,3 periodico. Perché lei da quanti anni vive tu, insomma, Cristina, da quanti anni vivi in questa casa? Da 30 anni. E non ti sei mai rotta un piede, adesso le porto una sfiga terribile. Beh, no, però da adesso in poi, che ho 55 anni, potrebbe succedere. Ma no, che non succede. No, perché comunque... penso alla sfiga incredibile in una casa così. Però questa non è male, Cristina. Quindi però, cioè, ogni volta che fai le scale conti i gradini, è questa la cosa? No, conto quante rampe, perché so già che in ogni rampa ci sono 8. Ormai le conosco. Ah, sono contento. Anche quando fai altre scale, qualunque scala, conti i gradini oppure solo quelle di casa? No, solo quelli di casa mia. Allora, non è una patologia grave, mi sembra è più curabile, mi sembra più una statistica, è il tentativo di star dietro la statistica e mi sembra un ottimo un hobby, una passione. Esatto, un ottimo grazie, hobby. Cristina, grazie mille. E questa era la prima telefonata, chiamateci, raccontateci le vostre nevrosi più o meno segrete, quelle che secondo gli altri sono le vostre follie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco. Io ero un bambino che rideva sempre, ma un giorno la maestra dice: oggi c'è il tema, oggi fate il tema sul papà. Io penso è uno scherzo, sorrido e mi alzo. Allora, sulle note di Tricarico che salutiamo, un si può fare che ci è piaciuto moltissimo. Buongiorno Alessio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Il preside dell'Istituto Pontormo di Empoli invia una circolare ai suoi studenti e dice: tornate a dire buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Tommaso Bertelli. Buongiorno. Buongiorno. Allora diciamocelo. Ah, un bel buongiorno. Davvero sì, buongiorno. Eccolo qua. Senta, preside, insomma, ci è piaciuto molto questa cosa, perché un po' le buone maniere, un po' l'educazione, un po' il valore proprio anche della scuola, dove bisogna stare un po' anche in certe regole, diciamocelo. Come le è venuta in mente di scrivere questa circolare? Come mi è venuta in mente?

Questa è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è La vita com'è di Max Gazzè. Vi ricordiamo che noi siamo sempre in cerca dei vostri si può fare, ovvero se siete dei cantanti, dei musicisti o anche semplicemente degli ascoltatori e trovate una canzone che secondo voi racchiude molto bene il concetto di si può fare, mandatecela, inviatecela, segnalatecela. Come potete farlo? Con i nostri account social, ovvero su Facebook Si può fare trattino Radio 24, oppure su Twitter chiocciola Si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e mio chiocciola Ale Maurizi. Tra l'altro proprio su Twitter ci scrive Pietro Bellomi, che dice: il preside, quello di Empoli che invita a dare il buongiorno, invita i ragazzi a dire buongiorno la mattina a scuola, ignora che Tricarico continua la sua canzone con Puttana la maestra. Sicuramente lo ignorava. Hai aspettato che il preside non fosse in linea con noi per dire una parolaccia. Esatto. No, ma il preside non poteva saperlo, la scelta musicale però era nostra. Assolutamente. E sempre sul mio Twitter invece ci scrive Francesca Fiorillo dicendo: tenere i biglietti del tram da sempre come fa Carlo Gabardini lo trovo straordinariamente poetico, visto che era la mia follia che avevo raccontato. E leggo questa cosa per un semplicissimo motivo, che sono andato poi a vedere sul profilo di Francesca Fiorillo ed è una psicologa, quindi sono contentissimo della cosa. Sono contentissimo, no, uno dice vabbè grazie, se uno qualunque ti dice che va bene non è sufficiente. Vabbè, ma è una psicologa un po' permissiva, un po' bene. Così un po' generosa, così. Questo può essere di manica larga, perché vi ricordiamo che stiamo chiedendo a voi ascoltatori di dirci le vostre idiosincrasie, le vostre piccole follie, le vostre pazzie nel quotidiano, che comunque se dette precisamente potrebbero farvi definire un po' matti. Perché oggi è la giornata della salute mentale, allora vogliamo tirare fuori la follia che c'è dentro ognuno di noi. Enrico da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. Dunque, la mia follia, io prendo spesso aerei e farà un po' forse la scaramanzia in fase di atterraggio. Già questa è una follia, sta dicendo, prendere molti aerei. Esatto. In fase di atterraggio, dipende un po' dalla città dove vado ad atterrare, cose del genere, se sono vicino a un finestrino mi pongo sempre un obiettivo, tipo non so, adesso devo contare 20 piscine. E guardando giù cerco di contarle e vedere se raggiungo l'obiettivo. Ma è sempre lo solito l'obiettivo? Sempre contare piscine? Sempre quello. Dipende poi chiaramente. Mi e do ce ne sono così tante di piscine? Piccoli. Ce ne sono così tante, Enrico? Mi do obiettivi più grossi o più piccoli in funzione un po' anche della città dove vado. Anche perché se uno atterra in Canada ci sono molte piscine a cielo aperto? No, ho detto Canada da ignorante, magari ce n'è tantissime. Sì. Non so, io di solito viaggio molto in Europa, quindi se vado nel nord Europa magari mi pongo l'obiettivo, non so, fino a 10. Ah, ecco. Se sono sud Europa magari dico, vabbè, tentiamo per 25. Diventa, obiettivi modificabili. Diventa un passatempo, uno scacciapensieri. Uno, due, tre, cerchi le pietre e non pensi al fatto che l'aereo sta atterrando. Esatto. Ma però, scusa, siccome ho paurissima anch'io di volare, devo chiederti questa cosa. Ma il gioco che cos'è? Il gioco è: se ne trovo 10 allora andrà tutto bene, se non ne trovo 10 forse no? Più o meno mi pongo un obiettivo, se succede questa cosa, magari sarebbe una questione di lavoro, scaramanzia, dico va bene, allora se questo business lo andremo a fare oppure no, vedrò altre cose. Ah, perfetto, è un misto tra obiettivo, scaramanzia. Sì. E chiaramente. Ma questa cosa, Enrico, ti è stata, diciamo, come dire, sei stato giudicato come un folle per questa cosa? L'ha raccontata in giro? Oppure, insomma. No, sì, lo racconto. Mi guardano un po', appunto, tipo, ma non hai altro a cui pensare. Sì. Ma comunque, dai, non è male questo qua. È quasi un suggerimento per chi vola. Grazie, Enrico, è una bella idea. Grazie mille. Qua. Sì, perché molte di queste follie, in realtà, poi sono delle cose a cui ci aggrappiamo per vivere meglio, per stare più tranquilli, per stare più sereni. Ma e tra l'altro sono due follie messe insieme, perché una è quella dell'atterraggio, ripeto, sì. Io ho paura di volare, ognuno ha i propri metodi. L'altra è in generale quella, secondo me, di porsi degli obiettivi e dirsi che questi obiettivi, a seconda che vengano raggiunti o meno, dicono qualcosa su come andrà la nostra giornata. Io questa cosa anch'io la faccio spessissimo, no? Se l'autobus apre anche la porta in centro, allora forse mi andrà bene la giornata. E lui lo fa con le piscine, quindi diciamo sposo in toto questa tecnica. Nicola da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, buongiorno, la mia follia. Allora, è cominciato tutto 3 anni fa. Praticamente sta nella misura del capello. Vuol dire praticamente 3 anni fa avevo cominciato a notare che quando andavo dal parrucchiere, sì, il capello cresceva in modo irregolare, no? E praticamente ho cominciato 3 anni fa a tagliare autonomamente e ogni 8 giorni devo tenermi la misura del capello, altrimenti sono costretto a tagliarlo. Senti come ride Nicola, perché sa che questa è una cosa abbastanza strana, originale, quasi una nevrosi. Ma in realtà è un modo per tenersi i capelli in ordine, dai, non è una nevrosi questa qua, Nicola. Sì, no, beh, anche è quello che dico io, le mie ragazze pensano un po' in modo diverso. Cioè, tu mettiamo il caso che, so, l'ottavo giorno hai molti impegni, tante cose da fare, però non puoi assolutamente non fare il taglio dei capelli, perché sennò è un dramma, è così? Di me non resisto. Devo trovare un minuto almeno per riuscire a tagliarli. Va bene, ci sta. Dai, ci sta. Questa, però, io ripeto, non è una grossa nevrosi, secondo me. C'è di peggio. Beh, secondo se me. Sei disposto, cioè, a uccidere se all'ottavo giorno non riesci a fare questa cosa, diventa una nevrosi. Se semplicemente ti lamenti, ci sta. 800 24 00 24, cari ascoltatori, aspettiamo ancora i vostri interventi, naturalmente per commentare tutto quello che volete, ma anche per giocare con noi su devo questo. Leggerti un sms, sì, assolutamente, sentiamo. Che è arrivato. Buongiorno, mi chiamo Filippo Crespi e io tutte le notti, se ho il sonno leggero, mi ascolto Focus Economia, si può dire che vado a letto con Barisoni. E questa sarebbe la sua nevrosi, la sua follia? Direi proprio di sì. Questa direi che è la peggiore di tutte, la peggiore di tutte. Traffico. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno a Joe Bastianich, bentornato. Grazie, buongiorno a voi. Ciao. Allora, c'è questa disputa ormai centenaria, millenaria forse, tra il vino italiano e il vino francese. Intanto però la vendemmia di quest'anno, Joe, tu sei anche un produttore di vino, la vendemmia italiana è buona, molto buona, è vero? Ce lo confermi? Sì, sono un produttore di vino in Friuli Venezia Giulia, Toscana, anche in Piemonte. È stata una bellissima annata sto anno, con confronto l'anno scorso, molto molto bene, siamo molto contenti. Bene, quantità e qualità? Entrambi, che è una cosa abbastanza rara, sì, c'è una bella produzione di qualità alta, non altissima ma molto alta. E a proposito, perché è proprio la quantità, no, in discussione, perché i francesi hanno, diciamo, classificato la quantità di, diciamo, di ettolitri raccolti dall'Italia e dalla Francia, e insomma l'Italia è risultata avanti, 48,8 milioni di ettolitri di vino raccolti certificati da Bruxelles contro i 46,4 raccolti dalla Francia. Ora, quindi quest'anno, diciamo, l'Italia la spunterebbe dal punto di vista della quantità, ma dal punto di vista della qualità, normalmente all'estero, no? Chi la spunta? Sembra sempre che i vini francesi siano un po' un passo avanti rispetto a quelli italiani. No, direi di no. Sicuramente, forse nel passato hanno un po' più storia di vini nobili, sì, sicuramente. Ma nessuno, nessuno nel mondo può battere l'Italia per vini veri, varietà autoctoni, vini di rapporto qualità-prezzo, vini che abbinano col cibo, lì siamo incombattibili in Italia, numero uno nel mondo, senza dubbio. Tra l'altro c'è un riconoscimento anche in questo caso, perché qualche tempo fa, come bollicine, come vini, diciamo, frizzanti, banalizzo così, le cantine Ferrari italiane hanno ricevuto il premio Sparkling Wine Producer of the Year, prestigioso premio. Quindi anche in questo caso, diciamo, l'Italia ha battuto lo champagne francese, quindi ormai ce la giochiamo alla pari anche sullo champagne. Sì, ma è molto difficile confrontare spumanti italiani verso champagne, sono due cose completamente diverse. Molto bello che Ferrari sta ricevendo il riconoscimento per fare ottimi vini di qualità nella categoria, ma dicendo che battono champagne è una cosa un po', non so, non si può dire, è diversa, è una cosa diversa, è diversa, è una roba diversa, ma va bene. Senti, ma tu che sei tra i ristoratori che portano avanti il Made in Italy, quello più internazionale di tutti sicuramente, dici il vino italiano, ok, va bene, se la gioca anzi col vino francese, però per esempio a me è capitato recentemente, insomma, all'aeroporto di Istanbul, qualche tempo sono passato, in vendita vini francesi in primo piano da tutte le parti e vini italiani ce n'erano pochi, messi dietro, nascosti. Cioè siamo nei posti cruciali come vini italiani, nei posti che contano, ma, ok, lascia perdere, Istanbul forse succede così, magari anche Dubai, ma se tu vai Londra, se tu vai New York, se tu vai Los Angeles, se tu vai Hong Kong, tu vai in queste città, trovi principalmente i vini italiani, sono dappertutto, e specialmente nell'ambiente dove c'è il cibo, è il cibo italiano, perché la abbinazione, la squadra di cibo italiano e vino italiano insieme è la cosa più potente che sicuramente che Italia ha per portare nel mondo, e quella è una cosa che sicuramente i francesi o nessun altro paese che produce vino nel mondo può avvicinarsi alla potenza del desiderio del mondo di bere e mangiare, bere vino italiano e mangiare cibo italiano. Quella è la vera forza del paese nel mondo. Quali sono le tendenze per quanto riguarda il nostro vino, Joe, in questo momento? Tu cosa serviresti in questo momento un vino italiano, a parte il tuo ovviamente, in una cena importante, molto importante? Beh, se parli delle eccellenze, uno dei miei preferiti ovviamente è il Barolo. Un Barolo, un vino ancora sicuramente sottovalutato nei paragoni ai grandi vini francesi, un vino globale, un vino grande, e ancora il mondo ha ancora tutto di capire della potenzialità della varietà Nebbiolo cresciuto in un territorio che si chiama Barolo. Da scoprire il Barolo, pensa ancora cosa deve capire il mondo del Barolo. Cosa serviresti invece, per esempio, che ne so, a un pranzo o a una cena, forse più adatto, tra Obama e Putin? Adesso tira un po' un'ariaccia. Ti dico un altro esempio più reale. La settimana scorsa ho servito il Papa Francesco, e con suo medaglione di vitello l'ho servito un Sangiovese toscano, specificamente un rosso di Montalcino, e lui l'ha gradito molto. Un vino molto, il Sangiovese è un vino molto da tavola, molto da pasto, molto anche semplice, possiamo dire, però. No, sicuramente adatto. Lui è un argentino, beve Malbec, allora ha un cultura di vino. È piaciuto molto il rosso di Montalcino servito con medaglione di vitello. Senti, tu sei a New York, in questo momento sei all'estero, come spesso ti capita. Non so se hai seguito le vicende italiane, in particolare le dimissioni del sindaco di Roma, Marino, il quale è incappato in alcuni scontrini per alcune cene. Uno dei vini che si è fatto rimborsare è questo, è un vino, non so se lo conosci, come si pronuncia? Taunina? Un vino friulano? Tunina. Vintage Tunina. Vino di Silvio Jarman. Che è buono? O è un vinaccio? Sì, è buono, è un vino importante, è stato il primo dei uvaggi di Friuli che ha avuto un successo globale 30 anni fa, un uvaggio friulano certamente molto importante, sì. Ma come giudichi questa scelta, diciamo, a tavola? Si poteva scegliere di meglio? 55 euro un Tunina. No, è un vino costoso, ma molto buono. Niente di dire, ha buoni gusti, anche se è un ladro. Beh, questa, diciamo, è da dimostrare ancora. Però, insomma, diciamo che gli scontrini però non sono riusciti a giustificarli. Il sindaco di Roma, che appunto si è dimesso poche ore fa, è freschissima la cosa. E quindi, insomma, invece ha una cena per rilassare il clima tra Obama e Putin, un vino che possa sciogliere un po', o magari un whisky per dargli un colpo e farli rilassare un po', non lo so. No, stiamo sul vino, dai, io la mia preferenza. E cosa faresti bere ai due leader? A Putin, beh, che sta sul vodka, l'ha portato a questo punto che non serve cambiare per lui, secondo me. Stiamo sulla vodka. Non apprezzerebbe il vino, non apprezzerebbe, mi sembra di capire. Non so, come persona non mi sembra troppo simpatico, ma comunque, chissà, forse è un grande esperto. Lui non so cosa dire del vino di Putin. E l'altro chi era? Obama. Ah beh, Obama l'ho servito tante volte, ha preso i vini rossi, anche lui piace la bistecca, carne rossa. Sì, forse stiamo in America, gli diamo un Cabernet Sauvignon di Napa Valley, o se no un Amarone, no? Un Amarone di Valpolicella. Ah, beh, molto... Certo. Molto estratto, molto dolce, sicuramente piace. Senti Joe, insomma, Italia, Francia, questa disputa è anche bello, è giusto così che andrà avanti sempre, ma da chi devono guardarsi questi due paesi, l'Italia in particolare, da qualche produttore di paesi nuovi, emergenti, il Sudafrica, il Cile, chi è che fa dei vini, l'Australia, dei vini importanti che domani... Devono guardare tutto, ma non devono avere paura. Gli italiani devono guardare se stessi e fare molto attenzione di curare il loro tesoro di questi vigneti autoctoni e presentare vini che sono puri, che riflettono il terroir, che rappresentano queste grandi varietà e mandano il messaggio sempre di autenticità e qualità italiana per il mondo. Senti Joe, l'ultima cosa ti voglio dire, siccome dammi una mano a sostenere questa cosa che bisogna usare l'italiano per sostenere il Made in Italy, la lingua italiana, non le parole inglesi, ma le parole italiane, perché tu hai scelto parole molto italiane per i tuoi ristoranti, perché? Facci qualche esempio. Ah, perché io penso che quando è la nostra responsabilità nella comunicazione del cibo, vino, cultura italiana, di essere autentico, allora... Per cambiare le parole, almeno in America, dove i clienti sono molto studenti, fanno attenzione, sono molto precisi, si può lanciare sempre una lingua abbastanza precisa che riflette veramente i prodotti. E noi, come America, abbiamo sempre puntato molto sulla autenticità di comunicazione. E quindi nomi proprio puff, mozzo, parole così, no? Che parole hai scelto? Facci qualche esempio per i tuoi ristoranti. Beh, come nome dei ristoranti abbiamo un'osteria romana a New York che si chiama Lupa Osteria Romana, abbiamo una pizzeria a Los Angeles che si chiama Mozza, il primo ristorante che ho aperto con mio socio Mario si chiama Babbo. Sai, parole che anche raccontano un po' dei momenti nella nostra vita. È la nostra storia. Autenticità, vedete cari ascoltatori, che per promuovere il Made in Italy con autenticità come fa Joe Bastiani ci non serve usare l'inglese. Italian Extraordinary Taste è una delle ultime scelte, secondo me, sbagliate del Ministero dell'Agricoltura. Bisogna puntare sulla lingua italiana. Grazie Joe, un abbraccio. Ok, grazie a voi. Ciao, grazie davvero. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Scusatemi, mi sono appunto, come dicevo prima, assentato 10 minuti per una questione familiare, niente di grave, mi sono perso Bastianic e mi spiace, ma te la sei cavata benissimo e prometto che riascolterò l'intervista in podcast, perché ricordiamo che tutte le trasmissioni che si può fare sono in podcast e le ritrovate sul sito di Radio 24. Tra l'altro un ascoltatore al 349-88-6666 dice: secondo il vostro ospite Marino è un ladro, il cuoco sa qualcosa che noi non sappiamo? A Radio 24 va bene? No, io ho detto, è ancora da dimostrare che Marino abbia, diciamo, utilizzato i soldi pubblici per andare a cena per i fatti suoi, perché gli scontrini non tornano, però questo, diciamo, è quello che ha detto Joe Bastiani, cioè che ha detto che Marino ha buon gusto a proposito di questo vino Tunina, che è costato 55 euro e che Marina avrebbe chiesto in più di una cena, quindi è il suo vino preferito, diciamo così, però diciamo a spese anche dei contribuenti. Se questo è da dimostrare. E va comunque bene. Negli sms è bellissimo, è uno sfoggio di vostre nevrosi. Ne leggo una: se leggo un libro e mi piace o ascolto un cd e mi prende, sono costretto a comprare tutta la produzione di quell'autore e poi a conservarli in stretto ordine cronologico e non riesco a prestare a nessuno. Ci scrive Mauro da Legnano e spero che le piaccia il mio libro, ecco. Oppure un altro ascoltatore dice che non riesce a resistere, ogni volta che entra in un bagno deve sistemare il tubetto di dentifricio se vede che è stato schiacciato malamente da chi lo ha utilizzato prima di lui. È bello, anche nei bagni altrui lo fa. Franco da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Prego Franco, su cosa volete intervenire? Sì, io sono un vero pazzo, guarda, a parte che ho un ritorno, Sono un vero pazzo perché conto tutto, conto gli scalini, conto i raggi delle macchine, delle ruote delle macchine, conto le colonne di un monumento. Se sono davanti alla televisione e scorre le immagini di un monumento e io non le ho contate tutte, si sente male. Ritorno indietro perché adesso si può tornare indietro. Sì. E le conta, e le conta. Devo contare. Ma lo so, le conta anche, che ne so, c'è un gruppo di persone, conta quante persone sono in quel gruppo? Addirittura sì, ma guardi, questa cosa però mi porta ad avere ormai 60 anni, sì. Però io mi ricordo tutte le targhe delle auto che ho posseduto. Se le ricorda ancora? Tutti i numeri. Tipo la penultima auto che ha posseduto, non questa, quella di prima? Che targa aveva? Sì, naturalmente aveva. Allora, NE 647 GG. E la prima, le abbiamo chiesto questo ovviamente perché così i vigili possono rintracciarla, perché lei è folle. E la prima targa se la ricorda ancora? La prima era la macchina di mio fratello, sì. Era una Volkswagen Maggiolone degli anni 60. Ma com'è la targa? Di Avellino. Avellino 23.810. Beh, ma è incredibile. Non possiamo fare il fact checking in questo caso, no, nel senso, esatto, che non possiamo verificare che ci stia dando informazioni. Però giuste, lei, ma ci fidiamo. È veramente folle, diciamo. Sì, io ho avuto 20 anni fa, 25 sì. anni fa ho avuto una mia partita IVA. Io mi ricordo il numero della partita IVA di 25 anni fa. È pazzesco. Beh, ma questo mi ricorda un po' Rain Man, quando è la scena famosissima in cui Dustin Hoffman conta cos'erano gli stuzzi cadenti caduti di un in terra ristorante. E in pochissimo tempo, non è che arriva a questi livelli, no, spero di no. Beh, io conto il numero di lettere nelle parole, quindi direi che... Oh Carlo, ma tu ce l'hai veramente tutte? Sì, io ce l'ho veramente tutte. Cioè, per ora gli ascoltatori... infatti sono toccato... dei dilettanti in confronto degli ascoltatori, sì. E temo che entro la fine della trasmissione sarò licenziato. Sono monomaniacali, invece tu ce l'hai tutte, quindi sei, come si dice, omnimaniacale. Esatto. Grazie, sono Franco. Panmaniacale. Grazie, beh, questa non è male. Secondo me rischia di scalzare la prima ascoltatrice che contava i gradini, perché Franco conta tutto, non solo i gradini, ma conta qualunque cosa. Facciamo anche Elisabetta da Milano, buongiorno. Buongiorno. Elisabetta? Non ci sente. Allora Massimo da Roma, buongiorno. Forse la mania di Elisabetta è quella di telefonare e poi non rispondere, sarebbe bellissimo. Chissà, Massimo? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sì, volevo intervenire sulla questione del vino. Sì. Per far presente che ormai sono passati molti anni, circa sarà 20 anni fa almeno, che l'Italia si fece promotrice per definire il vino a livello europeo come prodotto esclusivo della fermentazione dell'uva. Sì. I francesi si sono opposti. Perché se i francesi non aggiungessero quintali e quintali di zucchero nella loro lavorazione, quella sorta di vino non supererebbe gli 8,5, massimo 9 gradi. E quindi loro si sono opposti a definire il vino a livello europeo. Perché come se fosse... d'altronde l'altra soluzione che loro hanno trovato, che perlomeno c'erano le navi cisterne che dalla Puglia, dal sud dell'Italia, andavano a scaricare il vino prodotto nel sud dell'Italia in modo tale che potesse dare la gradazione sufficiente, sì, a quello che loro chiamano vino. Sì, cosa facciamo? Chiamiamo Davide Paolini come consulente per risolvere questa questione qua, di cui io non ricordavo questa notizia. Comunque ha fatto bene Massimo a ricordarcela. Del resto, tra l'Italia e la Francia è sempre una disputa su questa questione. Ogni anno la Francia supera l'Italia, l'Italia supera la Francia, è un testa a testa. Però è interessante, è una sfida, fosse, è divertente. Se fosse passato questo discrimine, come si riesce sì, a reclamizzare una cosa che vale meno, ecco. Sì, va bene, il marketing che valga meno, però qualche dubbio. Guardi che la questione dello zucchero, come dice lei, non è che solo i produttori francesi, credo che anche molti produttori italiani italiani si opporrebbero a questa questione qua, perché il vino è corretto, tagliato, è tutto legato, legittimo, però si fa un po' così il vino. Poi va detto che comunque i francesi sono campioni nel mondo nel valorizzare qualunque cosa facciano loro, sì, e che sia buona o non buona, non lo so se è una virtù, ma sicuramente insomma, dai, quando hai un prodotto buono e lo sai promuovere, vendere, lo sai anche vendere, quando non è buono. In quel caso è una fregatura per chi lo compra, ma quando è buono, come nel caso proprio del vino, sia italiano che francese, dico io, non tutti i vini, adesso sennò poi ci chiameranno dicendo che ci sono vini che fanno schifo. Esatto. Ripeto, lì c'è Davide Paolini che ancora, comunque, anche se non c'è il gastronauta più, è sceso una lacrimuccia, si è vista? C'è comunque da qualche parte nel palinsesto il sabato del villaggio, lo ritrovate. Adesso mi sono perso, abbiamo gli ascoltatori o abbiamo il vino prodotto dentro il carcere? Non ce l'abbiamo il vino prodotto dentro il carcere? Mi fai partire qualche nota così dico intanto la notizia? Di Jealous Rock, così raccontiamo intanto a proposito di vino una bella storia di vino italiana. No, non ce l'abbiamo. Intanto ti leggo un sms che dice: io conto tutto, ma quest'anno avevo la fissa delle balle di fieno. E dove le trovi le balle? Ah, in campagna, passando con la strada. Sì, ma mi sembra bello che abbia spostato la fissa da contare tutto a contare solo le balle di fieno. Tra poco ancora ascoltatori 800 24 00 24, nel giorno della salute mentale che è oggi, vi aspettiamo con le vostre nevrosi. Sulle note di Jealous Rock volevamo introdurre, ma la diciamo lo stesso alla notizia, anche se il nostro ospite non risponde al telefono in questo momento, i problemi della diretta. La notizia è questa: un vino prodotto all'interno di un carcere. Siamo nella casa di reclusione Sant'Angelo dei Lombardi e la cooperativa sociale Il Germoglio ha avuto, diciamo, la concessione di poter coltivare, pensa, dentro le mura del carcere, cioè un vigneto, un carcere particolare ovviamente, i lavoratori carcerati lavorano là dentro, però a differenza di altri casi in cui si parla di lavori socialmente utili, qua sono pagati normalmente, stipendiati, e quindi... E fanno, cioè, un vino che si chiama? Il vino come si chiama? Il Galeotto. Bellissimo, bellissimo nome, il Galeotto, giustamente. Cioè, poi se tira a livello di marketing questa cosa qua, perché tu lo berresti un vino che... Ah, il certo, Galeotto, perché, ma certo, fatto dentro un carcere. Bisogna vedere se il carcere è orientato bene col sole, sulla collina, perché non sono sufficientemente schifo. Esperto. Allora avremmo voluto chiedere volentieri a Marco Longo, presidente della cooperativa Il Germoglio, ma Marco Longo chissà. Ma l'ha bevuto persino il Papa questo vino. L'ha bevuto persino il Papa, quindi direi che è buono e va benissimo che si chiami il Galeotto, mi sembra perfetto. Anche perché Gio Bastiani ci ha detto che il Papa è, diciamo, no, adesso un buon gustaio. Sì, no, se no sembra il Papa è un alcolizzato. No, nel senso che chissà quanto vino beve. Ha detto che ha gradito quando gli ha offerto il medaglione di vitello un Sangiovese per il Papa. Toscano. Ok, allora andiamo con gli ascoltatori e facciamo Gennaro che chiama da Latina. Buongiorno, oggi vi chiediamo le vostre nevrosi, quelle che secondo chi vi conosce sono le vostre follie, che rivelano che in fondo tutti noi abbiamo qualcosa di folle dentro e anche fuori. Buongiorno. Senta, signor Alessi, io ho una brutta abitudine, però questa abitudine mi è valsa una volta per evitarmi il sequestro dell'auto. È capitato quando l'ultimo mio figlio mi si è sposato, era fuori e mi ha chiesto qualche cosa. Io l'abitudine mia è di guardare sempre la scadenza delle assicurazioni delle auto. Un giorno eravamo fermi con il mio consuocere per fare una commissione che mi aveva chiesto mio figlio, che era in viaggio di nozze. Sì. E l'occhio cade sulla mia macchina. Dico: ma è possibile che è scaduto? Dico: no, forse si vede, l'ho messo dietro il tagliandino. Gira e rigira, in parole povere, io la paura poi per tornare a casa, perché mi sono ho visto che io non avevo il bollino. Ho chiamato l'assicurazione e dice: siccome lei aveva due macchine, non l'abbiamo chiamata perché pensavo che questa qua l'avesse distrutta. Lei non ha idea. Io non l'ho interrotta, però questa non è una vera nevrosi, dai, questa è una cosa che nasce da un episodio che le è capitato e da quel momento lei ha l'occhio per la scadenza delle assicurazioni. Tra l'altro è un bell'occhio perché bisogna ricordarsela la scadenza, quindi è una cosa utile. Non la definirei in nessun modo, Carlo, che dici, una nevrosi? Anche a me non sembra una nevrosi. Lo mettiamo, diciamo, in elenco, però secondo me non vincerà oggi, no? Difficile. Però è molto importante questa cosa delle scadenze, perché per me invece è un dramma, non so, sì, mai, non so mai quando scade, e mi piace molto. C'hai anche questa, c'hai anche questa delle scadenze, no, Carlo, mi piace, non so come chiamarla, questa novità, insomma, che, sì, questa cosa che c'è da un po' di tempo, che in realtà i documenti, perlomeno i documenti tipo la carta d'identità, quando li rinnovi, no, quando li rinnovi in realtà valgono fino al tuo compleanno, cioè non più dal giorno in cui fai il documento, ma sì. E questo mi sembra, per alcuni documenti, adesso non vorrei essere preciso, io so che sono la patente, so che è la carta d'identità. Pensa che io non mi ricordo la scadenza della mia carta d'identità. Sarò folle anch'io per questo. 20 novembre 2011. E adesso ce la segniamo, anche perché non manca molto. È vero. Elisabetta da Milano, buongiorno. Ma c'ero anche prima, non mi sentivate. Scusi, Elisabetta, noi non la sentiamo per niente, quindi adesso invece sì. Attaccare il telefono. Le chiedo scusa, ero io che ho detto questa cosa stupida. No, allora io credo di fare una cosa che, pensandoci, faranno in tantissimi, sì, e che è quello di salutare le cose che usi tutto il giorno, tipo la bicicletta. Io vado al lavoro in bicicletta e al mattino e alla sera la saluto, ad esempio. Qui secondo me entriamo in una zona. Io questa cosa è la prima che non faccio, invece, quindi ce la deve spiegare bene. Cioè lei scende dalla bicicletta, la lega al palo e dice: ciao cara, gli ha dato un nome alla sua bici? Sì, ci vediamo quando torno da un viaggio, poi saluto tutta la casa. Certo. Ma tipo anche la poltrona, il televisore, tutto proprio? Il televisore non ce l'ho, però la poltrona neanche, a dir la verità. Però cosa c'è in casa sua, scusi? Un tavolo. Con le sedie. Tavolo e le sedie. E quindi saluta anche il tavolo? Beh, non è che proprio vada a salutare tutti in maniera maniacale. Ah, fa un saluto per tutti. Allora, quando lo pulisco, dico, sì, cioè, lo incoraggio. In che modo? Sentiamo un po'. Questo è interessante. Non so, per esempio, faccio, guarda, sei sempre bello. Ma che carina, Elisabetta. Però secondo me qua siamo in una zona interessante dal punto di vista della follia. Molto bello, cioè lei pulisce il io tavolo dicendo sei mia, sempre bello, comunque stai tranquillo, io perché ti pulirò. Guarda che gli oggetti hanno un'anima, anch'io ho questa idea, anche se non li saluto. Col computer, sì, cerco sempre di non arrabbiarmi troppo, lo sgrido ma non inserisco. Beh, col computer parliamo un po' tutti, però di solito non volano esattamente parole carine. In genere si dialoga, dice giustamente Peter dalla regia, con le piante, no? Si parla con le piante. Lei invece parla anche con le piante, Elisabetta? Ma le piante ne ho 4 grasse che non mi danno problemi, sono bravissime e quindi... Cioè sono magrissime nel senso che non smagriscono? Che fa essere brava una pianta grassa? Non mettendosi a dieta? No, perché non richiedono tante attenzioni, capito? Certo. Non sono pretenziose. Però un saluto glielo fa anche a loro o no? Cioè, allora, quando esco sul balcone, sì, certo, anche con loro. Poi ce n'è una che dà un giorno all'anno un fiore bellissimo e sì, che dura un giorno. Ma ha dato anche un nome alla sua bicicletta, per esempio, che lei saluta tutti i giorni? No, i nomi no, è la bicicletta. Certo. Il Torino... Ma le capita anche di confidarsi con la sua bicicletta se ha un problema? No, questo magari no. No. Ma adesso è in casa in questo momento? No, sono per strada. Ah, perché sennò le davo... in casa. Ma è a casa sua la radio accesa? A casa mia no, perché peccato, perché le davamo la possibilità di salutare il suo tavolo per radio, che mi sembrava bello fare una dedica al suo tavolo, tipo dedicargli una canzone. Questa è bella, questa Elisabetta purtroppo è bella. Non ha lasciato la radio accesa in casa, sennò aveva la possibilità. Se comunque il tavolo fosse in ascolto, lo saluto io. Grazie Elisabetta. Grazie, buona giornata. Grazie buona mille, giornata. Buona giornata. Vedi che stanno venendo fuori delle cose interessanti. Stiamo entrando. Infatti ti leggo un altro sms che dice Pietro Bellomi, che dice: non per stressare, ma mia moglie è psichiatra, posso darvi il numero? Secondo credo me che intenda per me bisogno. Credo che sia per me. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. È Eccoci qua di nuovo, cari ascoltatori. Oh, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Allora, naturalmente al telefono, ma anche sull'SMS ci sono messaggi sul vino, per la questione della sofisticazione dello zucchero. Vabbè, ma non era tanto belli, quello il punto, belli. Però ce n'è uno molto bello che dice: se è vero che il vino fa buon sangue, sì, tra Francia e Italia non è mai scorso buon vino. Bella questa. No, ma una notizia bella, Emilia. Però è questa, che insomma, dai, abbiamo superato la Francia. A me mi fa godere un casino questa cosa. Abbiamo superato la Francia nella produzione di vino, siamo primi. Vabbè, è una cosa stupida. No, molto stupida. No, non però, lo so. Insomma, no, dai, ce la giochiamo. No, mi sembra molto interessante. A me piacciono moltissimo i vini francesi, moltissimo. Quindi non sono che un esperto. L'italiota nazionalista. Ah, non bevete, no, ma bevete quello che anche i vini cileni. Però che a me piacciono molto le bollicine e quindi sono contento che le bollicine italiane con la casa Ferrari abbiano vinto il premio. Poi probabilmente, come dice Bastiani, ci sono due cose diverse, lo champagne e il nostro spumante prosecco, come dir si voglia. Adesso un bel appuntamento, vai. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu. Mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu. Fa la magia, tutto quel che vuoi tu, bibidi bobidi bu. Con salagadula puoi far tutto quel che vuoi, ma la frase però che tutto può è bibidi bobidi bu. Cari bambini all'ascolto, pochissimi, cari nonni all'ascolto, tantissimi, il sabato e la domenica mattina sicuramente, c'è un appuntamento per tutti voi, per tutti noi, un appuntamento che riguarda il mondo delle favole. Ci sarà una volta a Mori, in provincia di Trento, 9, 10, 11 ottobre. Buongiorno ad Andrea Satta. Ciao Andrea. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Caro. Buongiorno a tutti. Cantante di Tête de Bois e ideatore di questo, di questa rassegna, di questo festival, una cosa molto particolare che nasce anche dalla tua attività di pediatra a Roma, è vero? Sì, nella periferia romana, ai margini della città, io ho fatto il pediatra, pediatra sul territorio, con tantissimi bambini, molti dei quali hanno genitori stranieri. Una volta una mamma, appunto, nordafricana, mi disse: Andrea, io sono 8 anni che sto qua e non riesco a parlare quasi con nessuno, forse l'occasione ce l'ho quando mi fai fare la fila per visitare il mio bimbo. Ho detto: ma ho un'idea, mi sono detto, me la devo far venire. E allora misi un cartello e dissi: venite a raccontare la favola con cui vi addormentavate voi mamme da piccole a casa vostra, quindi nella vostra prima infanzia. Sì. E io pensavo che non ci crederanno, verranno, perché insomma. E devo dire la verità che ho comprato anche cose tipo popcorn, patatine, bevande gassate che mai un pediatra dovrebbe fare, mai dovrebbe consigliare. Mi vergogno un po' a dirlo. È stato un momento di debolezza. Esatto, proprio ho avuto paura che non venissero, no? Ma loro sono stati migliori di me, perché hanno portato, ho visto arrivare i biscotti palestinesi, le schiacciate, i couscous, le frittate. È venuto fuori di tutto a fianco a questa. Insomma, sono 6-7 anni che una volta al mese nel mio ambulatorio si raccontano fiabe e le mamme fanno questa cosa con i bambini, eccetera. Allora poi con l'Associazione Culturale Pediatri, Nati per Leggere, Un Pediatra per Amico, tutte aree di pediatria sensibili a questa tematica, che poi riguarda anche, come dire, il rapporto, la relazione fra culture, che sì, non ce lo dobbiamo dire, ma è un tema assolutamente molto presente, molto attuale. Può essere anche, Andrea, una cosa terapeutica. Noi oggi abbiamo chiesto nel giorno, nella giornata della salute mentale, abbiamo chiesto agli ascoltatori piccole cose che rivelano le nostre follie, le loro follie, hanno chiamato in tantissimi. La fiaba come terapia, no? Per così, per calmare anche alcune delle nostre paure, perché poi le favole nascono proprio da questo. Guarda, stai dicendo una cosa giustissima, perché come noi vediamo una fiaba, l'orso, anche le grette, i genitori che abbandonano il bosco, pollicino i figli, è chiaro, sono tutte delle mostruosità per la sono terribili, certo, di mamme e di papà, no? Ma invece sono percorsi che gli studi dimostrano essere educativi, sono studi molto recenti, pensa che addirittura dimostrano che nel neonato pretermine, quindi nel bambino che nasce prima e sta nella terapia intensiva neonatale, l'ascolto della sola voce registrata della mamma, perché come sai, sì, in terapia intensiva neonatale non è che una mamma può entrare, è terapeutica, per mobilità, eccetera. La sola voce registrata della mamma migliora tutti i parametri vitali di un bambino, l'apertura degli occhi più completa, la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria. Ci sono studi fatti in Francia e anche in parte in Italia. Ma questa cosa poi funziona anche quando si rimane grandi, insomma, perché la voce della mamma è la favola. Abbiamo poco tempo, però Andrea, un appuntamento che vuoi ricordare in particolare all'interno di questo Ci sarà una volta, Mori 9, 10, 11 ottobre, un appuntamento su tutti. Intanto sono mamme da vari paesi del mondo, dall'Africa, dall'Asia, che vivono in Italia, che hanno preso i treni durante la notte per arrivare, eccetera. Sì. E mi sono fatta aiutare da amici artisti, da Nada, da Paolo Endel, da Riondino, da Coriù, da Sergio Staino, Massimo Brai, va bene, ce ne sono tantissime. Andate a cercare il programma su internet. Grazie Andrea, dobbiamo davvero salutarti. Grazie. E dobbiamo chiudere con, il premio dobbiamo dare. Sì, l'ascoltatore che contava tutto. Esattamente, vince il premio. Ci ricordiamo il nome, però abbiamo deciso che è lui che vince il premio di oggi, il catalogo del Mudec edito da 24 Ore Culture. Da domani cambiamo premio.